novità. Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza. È vero, ma io stava che mettendo. Via mettendo. Certe robe era me con la Susanna che in sua camera è andata. Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. Non mi... il foglio che Figaro ha scritto. Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta. Io non intessi niente. Convieni che abbiate i gran pensieri in mente. Di che? L'ave qualcuno. Chi volete che sia? Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto. Ah, sì, Susanna, appunto. Che passò, mi diceste, alla sua stanza? Alla sua stanza? O qui? Non vede bene! Susanna, e donde viene che siete si turbata? Per la mia cameriera! Io non so nulla, ma turbata senz'altro! Oh, quella serva! Più che non turba me, turba voi stesso! È vero, è vero! E lo vedrete adesso!